Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati come ogni venerdì per una nuova puntata di Zibaldone qui su Contrabanda FM. Oggi di cosa parleremo? Beh, secondo me lo capite con questa canzone. Through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on. Perché vi domanderete, cominciamo una puntata di Zibaldone con questa meravigliosa You'll Never Walk Alone di Jerry and the Peacemakers? Perché parliamo della musica londinese degli anni 60? Perché parliamo, non lo so, delle origini del fenomeno Beatles? Perché parliamo Banzo? Insomma, buon pomeriggio, bentornato a Zibaldone, spiegalo tu ergonomicamente ai nostri ascoltatori perché abbiamo cominciato con questo brano che introduce 100% la puntata, che è uno speciale, come spesso succede qui quest'oggi a Radio Contrabanda. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. C'è anche un'altra falsa pista che andrebbe menzionata, cioè quella di una puntata dedicata alle canzoni del musical, perché You Never Walk Alone nasce come canzone, come brano del musical Carousel di Rodgers e Hammerstein, leggendari autori di musical come Tutti insieme appassionatamente, fra gli altri. Però evidentemente molta gente, pensando, ascoltando You Never Walk Alone, pensa a qualcos'altro, ed è qui che andiamo a parare, perché ci siamo lanciati nella improba impresa di dedicare una puntata agli inni calcistici. Quindi torna la serie Tutto il calcio, quarto episodio in due anni, e la puntata di oggi si intitola Tutto il calcio a squarciagola, appunto perché parliamo di inni. Ma perché l'ho definita un'impresa complessa? Perché, Steven, è un genere molto avaro di qualità, quello degli indie calcistici, è molto molto molto prodigo di stereotipi. Quindi ecco, diciamo, abbiamo trovato comunque la nostra strada, sentirete la scaletta, però ecco, per stare dalla parte del sicuro abbiamo cominciato con quello che è forse l'inno calcistico più famoso di tutti i tempi e secondo un sondaggio di France Football del 2017 è anche il più bello, quindi c'è, cioè, un'opinione condivisa da una grande quantità di persone. Io mi ci metto dentro perché devo confessare che praticamente quasi tutte le volte che sento You Never Walk Alone finisco in lacrime, confessione. Però, e non sono un tifoso del Liverpool in nessun modo, però è proprio il potere della canzone. Comunque, sì, è una canzone che è l'inno ma non nasce come inno, e forse qui sta il segreto della sua qualità, perché sì, nasce oltretutto, come ho detto, in un contesto di musical, qualcosa di completamente diverso, qualcosa di eminentemente americano, incredibili i giri che fanno le canzoni a volte, e sì, diventa, si impone con la forza, però comunque c'è un passaggio intermedio che porta questa canzone dagli Stati Uniti all'Inghilterra, cioè più precisamente proprio a Liverpool, perché Jerry and the Pacemakers erano un gruppo di Liverpool e incidono questa canzone nel 1963, va in testa alle classifiche e diventa quasi subito un inno dei tifosi. E poi da lì parte la leggenda, appunto, che una delle entrate di Anfield, dello stadio di Liverpool, si può leggere You Never Walk Alone, ma è una canzone, questo si sa poco, si sa meno, perlomeno, che è usata anche da altre squadre, e più delle volte per contagio, cioè nel senso, dopo aver giocato con il Liverpool. E due esempi famosi negli anni 60, ad esempio abbiamo il Celtic Glasgow, e però anche in Germania il Borussia Dortmund è stata una canzone che ha usato, una squadra che ha usato questa canzone, perché è bellissima e piace a tutti. Però adesso che l'ho detto quattro volte, chiedo scusa se qualcuno ci ascolta che sia simpatizzante dell'Everton, perché i tifosi dell'Everton durante i derby ad Anfield si girano di spalle. Beh, non va bene. Comunque, insomma, non è facile trovare una squadra che abbia un inno prodotto come manager da Brian Epstein e da George Martin, voglio dire, insomma, e una canzone tra l'altro scartata dai Beatles, che preferirono pubblicare come primo singolo Love Me Do. Ma andiamo avanti, Banzo, subito a bomba, perché andiamo in Italia e troviamo una squadra che sì che ha avuto alle spalle un cantautore che ha scritto più di un inno dedicato alla sua squadra del cuore. Città, unico grande amore de tanta e tanta gente che fai sospirare. Roma, Roma, Roma, lassaci canta. Da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare. Roma, Roma bella, t'ho dipinta io, gialla Roma, Roma mia. c'è bisogno di dire chi è Antonello Venditti, voce inconfondibile, con questa Roma non si discute, si ama, che ha compiuto da poco i 50 anni, perché è del 1974 e France Football, la classifica che citavamo prima, l'ha messa in seconda posizione, quindi insomma non è casuale che segua il Liverpool, perché Liverpool e Roma, come sanno i tifosi giallorossi come me, non hanno mai giocato contro. Ecco, e qui chiudo subito questa parentesi e invece do il bentornato al nostro Fausto De Salvia che ci accompagna quest'oggi. Fausto, buon pomeriggio, e spiega tu la storia che c'è dietro a questa canzone, perché è molto divertente. Buon pomeriggio Steven e buon pomeriggio a tutti. Sì, non tutti sanno che questo inno nasce da una sfida però lanciata da due laziali, guarda caso. E i due laziali però sono gli Oliver Onions, li conosciamo bene, sono i fratelli De Angelis, autori di tantissime colonne sonore, che nel 74 stanno registrando all'RCA il primo e unico, ribadiamo, disco di Giorgio Chinaia, per fortuna. I'm Football Crazy, per fortuna, e stanno registrando questo disco, e nello studio a fianco c'è Gian Piero Scalamogna, chi è in arte è conosciuto come Geppi & Geppi ed è stato autore per Patti Pravo, per Ornella Vanoni, per tantissimi altri artisti, e lo provocano, dico guarda, noi stiamo facendo questa canzone, fra l'altro la Lazio stava per vincere il suo primo scudetto, quindi lo provocano e lui si risente, dice adesso vi faccio vedere io, va a casa, compone una bozza di melodia e chiama l'amico Antonello Venditti per completarla. Poi non riescono a trovare la quadra per il testo e loro coinvolgono Sergio Bardotti, che non ha bisogno ovviamente di presentazioni per noi di Zibaldone, e Franco Latini, che forse un minimo dobbiamo presentare, è stato un doppiatore molto molto eclettico, diciamo che ha doppiato centinaia di cartoni animati, se pensate al Gatto Silvestro in Italia, la voce era la sua. Ecco, per incendere. E insieme realizzano questo pezzo, e pratica nel 75 diventa l'inno ufficiale della S Roma. Ma un'altra cosa che non si sa è che quasi subito viene sostituito. Perché uno penserebbe, beh, ha fatto 50 anni, una canzone così indimenticabile. Invece, praticamente, quando Dino Viola sale alla presidenza fine anni 70, lo sostituisce con Forza Roma, Forza Lupi, cantato da Lando Fiorini, quindi cantante un po' più tradizionale, meno schierato politicamente, diciamo, di Venditti, perché è probabilmente in questi anni, fine anni di, insomma, anni di piombo che ben conosciamo, come dire, non ne è ritenuto sconveniente. Però fortunatamente nell'83 la Roma di Lidl vince il secondo scudetto, e quindi Venditti col suo Grazie Roma si riprende il Circo Massimo e si prende il posto che gli spettava. L'ultimo dettaglio riguarda anche al titolo del brano, no? Che è Roma non si discute, si ama, che rimanda ad una storica frase pronunciata da Renato Raschel nel lontano 51, ai tempi dell'unica retrocessione della Roma in Serie B. Andiamo avanti, vediamo se questa la conoscete. La voce forse sì, la canzone non ne sono proprio sicuro. Scendono in campo le maglie rosse e blu, la Sassolese non teme gli avversari, perché è sicura che è sempre la più forte, nemmeno l'arbitro la può colpire a morte. Se la partita può essere anche dura, la sua vittoria però è già sicura. Tecnico, Castellamma al campanò, Janda Sveiteri, Sprai fin dentro in roca, dai fe gol, caffan vader chi le vol. Janda Bala, chi inverempio la boccia, dai fe gol, cavulam in Serie C. La Sassolese l'ha stata persa in tir. Danno scampo le maglie rosse e blu, la Sassolese non teme gli avversari, con le buone o le cattive prenderemo la vittoria, gli daremo una laveda ad Arcurderes. Forza forza Sassolese, che gli diamo una lezione, li mandiamo tutti a scuola di pallone. Tecnico, gol che suonano al campanò. Gli under-sainter gli sprite in dentro in roca, dai tre gol che fanno vedere chi le va. Gli anna bala chi vede in più la boccia, dai tre gol che volano in Serie C. La Sassolese la sa da persi in tiro. Beh, con questi suoni brasileiros, no? Questa canzone, la voce era quella, forse l'avete riconosciuta, di Pierangeli Bertoli, Pierangelo Bertoli, Suonema al Campanaun, l'inno di una squadra di provincia sconosciuta di più, la Sassolese, era il 1973, no? Che stava in Serie D, si diceva, insomma, speriamo che vada in Serie C, forse l'avete capito, perché era cantata tra l'altro in dialetto modenese, però Fausto non ha, insomma, niente più o meno a che fare con il Sassuolo che si conosce al giorno d'oggi. Diciamo quasi, perché in pratica il presidente della Sassolese, questo Carlo Alberto Giovanardi, che è amico di Bertoli, che all'epoca è un cantatore ancora inizi di carriera, soprattutto impegnato politicamente, è maoista, quindi ovviamente fa soprattutto canzoni di propaganda politica, però scrive anche canzoni in dialetto modenese anti-sassolese, e quindi lo coinvolge, gli propone: guarda, ho bisogno di un inno per la mia squadra, se me lo realizzi ti produco il tuo prossimo disco. E allora l'accordo è fatto e nasce questa briosissima Suoniamo il Campanone, che vuol dire banalmente suoniamo il campanone. Che cos'è il campanone? È la torre civica di Sassuolo, quindi uno dei simboli della cittadina modenese. E quindi ovviamente abbiamo queste immagini di ribassi, insomma, della squadra del Sassolese, che ha i colori rosso e blu, quindi non ancora i nero verdi che saranno del Sassuolo, e che punta appunto gioiosamente verso la Serie C, che non la raggiunge, però a fine stagione Giovanardi trova l'accordo con un'altra squadra e fondano il Sassuolo che conosciamo tuttora, che adesso milita in Serie A. Sì. Quindi il lindo di Bertoli finisce, diciamo, nel dimenticatoio, perché la squadra dopo un anno esiste più. Esatto, quindi non ha più neanche gli stessi colori. Uno potrebbe pensare, povero Bertoli, ma in realtà l'album che gli produce Giovanardi finisce nelle mani di Caterina Caselli, che certo, gli proporrà un contratto per la sua CGD, e da lì partirà la sua carriera di livello nazionale, che lo porterà anche a Sanremo e in ogni dove. Eh sì, noi rimaniamo nella provincia italiana e andiamo a Vercelli. Sentitevi questa canzone. Yeah. nei baldi colori dell'altre città, la bianca divisa cortese sarà. Beh, qua bisogna subito precisare insomma un paio di cose, Banzo, sulla Pro Vercelli, no? Perché si fa riferimento a questa squadra sconosciuta ormai ai più, però che ha avuto all'inizio, nell'epoca, no, fase pionieristica del calcio italiano, tantissimi successi, perché insomma all'albo ha 7 scudetti e quando fu scritto il testo di questa canzone nel 1911 ne aveva già vinti ben 3, però insomma te la lascio spiegare a te questa storia perché è simpatica. Beh, i primi 30 anni di vita della Pro Vercelli furono gloriosi, i 7 scudetti in 30 anni, una squadra fondata nel 1892, però adesso si viene ricordato ogni tanto, più che altro per sfottere i tifosi di squadre che hanno vinto meno scudetti, però sono tutti scudetti prima del girone unico. E come hai già detto, il testo dell'inno è stato scritto nel 1911, però la musica no, almeno non è stata suonata nel 1911, quello sicuramente. Beh, è una musica nuova in realtà, perché non questo era l'inno della Pro Vercelli con queste parole, ma la musica andò un po' perduta, non fu incisa a suo tempo, quindi quando questo brano viene inciso in questa versione, probabilmente a fine anni 70, non abbiamo la data esatta, diciamo che la musica originale sopravviveva al massimo nella memoria di qualche anziano tifoso, quindi diciamo che si cerca di gettare un ponte fra due epoche completamente diverse, quindi abbiamo il testo più volte citato, scritto dall'ingegnere Ettore Ara, poeta dialettale vercellese, il giornalista ex giocatore della Pro Vercelli Ettore Berra, si sente, se riconoscete qualche parola, perché il chorus non sempre lo rende facile, siamo un lessico un po' antiquato. E però la musica, diciamo che è molto figlia del suo tempo, è groovy, è quasi psichedelica a volte, e poi c'è questo coro lirico. L'inno è scritto dal maestro Emilio Vercelli, non so se lo hanno scelto proprio per quello, perché è perfetto. Il coro lirico è di Gibi Viotti alle voci, e invece, ecco, dicevamo del suono psichedelico, groovy, i musicisti sono i turnisti dello studio di Renato Carosone. Ma è una cosa abbastanza bizzarra, come lo è questo inno alla fine, che diciamo è durato, la cui composizione è durata quasi 65 anni, qualcosa del genere. Ecco. Banzo, una cosa che a me poi fa molto sorridere, la bianca divisa gloriosa sarà, cioè, ma con i campi che c'erano un secolo fa, anzi anche di più, cioè, la divisa bianca forse non era proprio la scelta migliore, no? Forse nei primi 5 minuti era bianca, però Steve, mi rendo conto che non abbiamo detto il titolo del brano, dai, dillo, dillo. Parlato per qualche buon minuto, ed è Pro Vercelli Football, con il trattino fra football, giusto per ribadire quanto poi il testo fosse antiquato. Un inno poi successivo, quello che è tuttora l'ufficiale, è stato scritto da Angeleri, che avevamo passato qualche anno fa in uno speciale di canzoni dell'estate, che è vercellese. Dai, andiamo nella vostra Romagna con il prossimo inno. L'urlo della folla delirante è un boato acuto che si innalza verso il cielo e si diffonde nello stadio schioppettante. Sibila il fischietto e dopo un attimo riecheggia il grido unanime impetuoso d'ogni petto. Corre come il vento il centravanti e tutto solo si presenta a fare il tiro fulminante. Cesena, la squadra del cuore, fa gioco stravinci, fa squadra del cuore stravinci fa gol. Va la sfera avanti verso il fondo, vola quindi verso il centro, non sta ferma un solo istante. Passa dal terzino alla mezzala, che la porge alla mediana, ed è quest'ultima vallala. Trepida la folla che già muore dalla sete di veder la palla collocata in rete. Eccola la sfera che si insacca, si bilanda e scoppia l'urlo fragoroso degli astanti. Forza Cesena, la squadra del cuore, fa gioco, stravinci, fa gol. Bisogna dire, Fausto, che questa canzone probabilmente quasi nessun tifoso del Cesena la conosce, perché dai dai Cesena siamo insomma alla fine degli anni 60, di un tal Guerino con il complesso di Cesare De Cesaris, in realtà ha una storia molto particolare dietro, perché era un tentativo di vendere gli inni musicali nell'Italia degli anni 60, dove insomma il calcio stava diventando di massa, c'erano tanti tifosi, e insomma creare inni un po' per tutte le squadre, e questo Cesare De Cesaris ci ha provato a destra manca. Sì, è una vicenda degna di un podcast true crime, potremmo dire, perché veramente ho cercato un po' di ricostruirla e sembra che De Cesaris, che poi all'anagrafe faceva Cesare Colecchia, virtuoso della fisarmonica di Chieti, con la sua orchestra abruzzese, lui principalmente proponeva folklore abruzzese rivisitato, incrociato con i ritmi più moderni, poi si inventa questa cosa di fare degli inni per squadre di calcio con un'unica musica e lo stesso testo con soltanto cambiato il nome della squadra, e quindi la sua etichetta, che è la CDC, quindi la Cesare De Cesaris Records, produce le canzoni Dai Dai Cesena che ci siamo sentiti, Dai Dai Maceratese e Dai Dai Avellino, che hanno tutti la stessa copertina, in cui c'è un giocatore con la maglia rossonera, uno con la maglia del Napoli sembra, quindi in realtà quindi banalmente una cosa assurda, non si capisce veramente a chi lo volessero vendere, anche perché i Cesena e la Maceratese all'epoca giocavano nello stesso girone in Serie C, quindi avessero cantato dagli opposti spalti lo stesso inno soltanto con un testo cambiato, una vicenda davvero assurda, e fra l'altro con il testo come potuto notare, con questa cosa di vedere la palla collocata in rete che penso nessuno abbia mai detto in nessuna telecronaca di calcio, sì. Però è un testo scritto da un poeta dialettale di Chieti, sempre questo Armando Consabbi, quindi una vicenda da scoprire, invitiamo i nostri ascoltatori che se trovano qualche altro disco del De Cesaris di mandarcelo, magari così potremmo proporli in futuro. Sì, sì. Poi proprio nel 68 il Cesena ha avuto il suo inno Forza Cesena, scritto da un fisarmonicista romagnolo doc, Vittorio Borghesi, con il complesso tipico e moderno. Facciamo veramente un bel volo pindarico adesso e vediamo se capite da che parte del mondo viene questo inno di una squadra di calcio. Dragon, oye! Oye! Nakende nange stade Tata Rafael, nakende de kota la FC Dragon. Dragon. Vabbè, dai Banzo, diciamolo, insomma, subito, siamo nella Repubblica Democratica del Congo e è la fine degli anni 60 con questa FC Dragons che, voglio dire, ha dei ritmi molto più belli di quella sul Cesena di prima, per esempio, eh? Vabbè, questo io non so assolutamente che squadra sia questa, però il pezzo è una tale bomba che, insomma, parleremo anche poco perché la musica ha già detto tutto. Johnny Bocchelo è una leggenda della musica in patria, chitarrista straordinario, beh, si sente il suono di chitarra, è bellissimo, esperto nella fusione fra influenze moderne e ritmi tradizionali e appunto con un guitar playing strepitoso. E non sappiamo però, questo è uno dei suoi brani più famosi, ma non sappiamo se sia mai stato veramente l'inno di questa squadra che adesso si chiama Amicale Sportive Dragons, ha vinto 4 campionati locali, non ne abbiamo idea, però ci piace credere che sia stato così e che sugli spalti dello stadio Tata Rafael, che viene citato più volte nel corso della canzone, si cantasse questo inno, ed è lo stesso stadio dove pochi anni dopo si affrontarono Muhammad Ali e George Foreman per uno degli eventi forse più famosi della storia sportiva del Novecento. Banzo, guarda, da Kinshasa facciamo veramente un altro volo incredibile fino dall'altra parte dell'Oceano Atlantico a Takaritinga, che voglio vedere chi la conosce, però insomma vediamo che ci dice e che vi dice questa canzone. Quando o Cati entra em campo tem a força de leão. É campeão, é campeão. Quando o Cati entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem raça e é unida, de todas a mais querida da nossa região. Com as palavras se escreve sua história e com jogos muitas glórias que alegrou a multidão. Ei, Cato, faz mais um pra gente ver. Nossos corações balançam quando vamos ver você. Ei, Cato, faz mais um pra gente ver. Nossos corações balançam quando vamos ver você. É campeão, quando o Cati entra em campo tem a força de leão. É campeão, quando o Cati entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem raça e é unida, de todas a mais querida da nossa região. Com as palavras se escreve sua história e com jogos muitas glórias que alegrou a multidão. Ei, Cato, faz mais um pra gente ver. Nossos corações balançam quando vamos ver você. Ei, Cato, faz mais um pra gente ver. Nossos corações balançam quando vamos ver você. É campeão, quando o Cati entra em campo tem a força de leão. É campeão, quando o Cati entra em campo tem a força de leão. Nossa torcida tem raça e é unida, de todas a mais querida da nossa região. Com as palavras se escreve sua história e com jogos muitas glórias que alegrou a multidão. Vabbè, su questi ritmi brasiliani, insomma, sempre ci si immagina veramente la samba giocata sul campo di calcio di questo Clube Atletico Takiritinga. Era l'inizio degli anni '80 con questo brano Fausto, di una squadra forse meno conosciuta, però che insomma ci sono degli aneddoti interessanti che hanno a che fare anche l'immigrazione italiana. Sì, perché la squadra che appunto abbreviamo in CAT, così facciamo prima, è stata fondata da immigrati italiani nello stato di Sao Paolo, nell'inizio degli anni 40, ma perché ha i colori neri, verdi e rossi? Semplicemente perché quando nel 42 il Brasile entra in guerra con gli alleati, dichiara guerra all'asse, il governo brasiliano impone di togliere qualsiasi riferimento all'Italia e quindi loro che avevano i colori bianco, rosso e verde della nostra bandiera si trovano a sostituire il bianco col nero, colore che hanno tutt'oggi. Non è una squadra che abbia avuto eccezionali risultati, credo che abbia qualche piazzamento nel campionato paulista, credo che nella prima divisione siano più di 30 anni che non giochi, quindi sì, sì. Però ha comunque una tifoseria veramente scatenata, come questo ritmo dimostra, e tuttora questo è l'inno ufficiale della squadra, che recita testualmente appunto nostra, quando entra in campo il CAT, ha la forza di un leone. Eh sì. Andiamo, torniamo in Italia, andiamo in Sicilia. Nell'occhiello per ricordare al cuore un amore grande che mi fa diventare pazzo d'allegria, e non per niente il fiore della squadra mia, un fiore rosa nero sempre profumato che fa cantare tutti i suoi innamorati. Tu prova un po' a guardarlo e più non te ne andrai, io ormai ci son cascato e non me ne pentirò mai. Palermo bella, Palermo cara, tu sei la squadra del mio cuore. Palermo bella, Palermo cara, tu sei la squadra del mio cuore. Pensare all'uomo suo, dal cuore a un attimo, a un desiderio, un fiore rosa nero porto nel mio cuore per ricordare un amore grande che mi fa diventare pazzo allegria, e non per niente il fiore della squadra mia. Palermo bella, Palermo cara, tu sei la squadra del mio cuore. Vabbè, devo dire che questa è la canzone più cantautorale forse di tutte, insieme a quella di Venditti a modo suo, Banzo, Massimo Melodia, Un fiore rosa nero, l'inno del Palermo Calcio del 79. Insomma, qua io ci ho sentito molto Bubola, in fin dei conti anche Andrea, un po' forse nella maniera di cantare con questa R arrotolata, anche un po' Guccini, no? Ma sai che io ci sento anche un po' Bennato nello stile? Però, può essere. Però tu sei l'esperto di Bennato, quindi mi rimetto a te. Sì, questo Massimo Melodia, un nome, beh, in realtà è un cognome siciliano abbastanza diffuso, che poi fosse un cantautore è una coincidenza. Siamo nel 1979, anno in cui il Palermo sfiora per la seconda volta negli anni 70 la Coppa Italia, perde con la Juve nei supplementari, ma ancora più famosa la sconfitta polemica arbitrale devastante contro il Bologna nel 73-74. E il Palermo nel 79 si rinnova con un nuovo stemma, una nuova divisa e anche un nuovo inno, che è appunto quello che abbiamo appena ascoltato, di Massimo Melodia. Io non so quanto sia diffuso fra i tifosi del Palermo, perché non è propriamente cantabile nel senso del coro da stadio, però è un brano che ha un certo gusto musicale e nel panorama degli inni non è una dote frequente. E Massimo Melodia ha una carriera molto lunga, è scomparso prematuramente nel 2012 a 62 anni, però soprattutto nel teatro, ha fatto musiche per il teatro in modo veramente veramente massiccio, ma anche per la TV e la radio, e se andiamo a controllare poi risulta che ha solo due album all'attivo, uno dei quali in dialetto palermitano, che però sono usciti molti anni dopo questo singolo, all'epoca aveva pubblicato veramente poco come cantautore. Andiamo a nord, qualche anno dopo, metà anni 80, e troviamo il Torino. Anni 80 questo inno, infatti era l'85, subito dopo quella stagione irripetibile per il Toro Fausto 84-85, in cui arrivò secondo subito dietro l'Hellas Verona, voglio dire Verona e Toro primi e secondi, insomma cosa impensabile al giorno d'oggi. Tra l'altro composto da Reds o Reeds, il nome e cognome però fa sembrare quasi uno di quegli acquisti strani, no? Quando c'erano solo i tre stranieri, Maurizio Potocnik, no? Sembra insomma uno sloveno che è venuto a Torino. No, invece, raccontiamo un po' come la storia. Invece questo Potocnik è di Conegliano Veneto, quindi suppongo non sia un gran tifoso del Toro, ma all'epoca era un popolare cantante italo disco, ce n'erano a decine in Italia naturalmente. Lui fra l'altro arrivò anche in finale al Festival Bar e cantava principalmente in inglese. In questo caso invece viene contattato da autori doc come Bruno Marro per la musica e Oscar Avogadro, che è autore di testi celebri come La Luna Bussò di Loredana Bertè naturalmente, e che sono tutti torinisti al 100%, lo coinvolgono in questo inno che appunto è fra i più amati della tifoseria granata, fra l'altro talmente amato che gli Statuto, il storico gruppo idolo della curva maratona, lo ha ripreso nel 2006 e riproponendo una versione un po' più ska, e il brano appunto si chiama Sempre Tu, e è un invito alla perseveranza, fra l'altro, perché nel testo, come avete sentito, si dice che c'è una stella del tuo futuro e un bel giorno arriverà. Però sono passati 40 anni e purtroppo la stella del Torino ancora non arriva, sono fermi ancora 7 scudetti, ai noi, mi spiace per i nostri amici torinisti. Sì. Ascolta Fausto, grazie di essere stato con noi e ci ritroviamo alla prossima. Alla prossima speciale, magari per le canzoni natalizie. Ah beh, quello sicuramente, mancano più o meno 2 mesi. Andiamo in Germania dove troviamo una squadra molto amata con questo inno. Es ist wirklich sicher, dass die Tragik St. Pauli kennt. Es ist, als ob es Bier nicht in jedem Supermarkt gibt. So groß ist man wirklich, aber so ist die Realität. Und hooray, hooray, hooray, St. Pauli, würde es gehen, würde ich dich umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen. Manche hängen ihre Fahnen in die nächstbesten Wind, doch die Liebe weiß ich jetzt, wenn der Wind zunimmt. Und Liebe ohne Leiden hat noch niemand gesehen. Man kann ein Lied davon singen, man kann sich selbst nicht verstehen. Und hooray, hooray, St. Pauli, würde es gehen, würde ich dich umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen. Und Bayern besiegt, in Chemnitz verloren, man hört noch die Chöre in seinen Ohren. Meine Schulter ist nass durch des Nebenmanns Tränen. Kann es etwas Schöneres geben, als Nagi die Fahne in den Boden rammte und keiner vor Glück seinen Namen noch kannte. Ein ganzes Viertel in Gänsehaut, FC St. Pauli, wir lieben es laut. Und hooray, hooray, hooray, FC St. Pauli, würde es gehen, würde ich dich umarmen. Das hier ist Fußball, das hier sind Dramen. Und hooray, hooray, hooray, FC St. Pauli. Devo dire che questa canzone, insomma, non sembra proprio l'inno di una canzone di calcio, no? Das hier ist Fußball, che è stata scritta ormai una ventina d'anni fa, no? Da questo storico leader di una band rock hamburghese, Tomte. Insomma, però in realtà è l'inno non ufficiale di una squadra molto amata, lo dicevo, il San Pauli. Beh, sì, diciamo che non c'è il trionfalismo tipico di queste situazioni, perché il San Pauli è una squadra che nella sua lunga storia ha vinto pochissimo. Vabbè, ma manco il Cesena, eh? credo che il maggior risultato, vabbè, però scusa, credo che il risultato più rilevante della storia del San Paolo sportivamente sia la Zweite Bundesliga, cioè la Serie B che hanno vinto l'anno scorso. Poi ho visto adesso su Wikipedia che hanno vinto delle coppe di Amburgo, ignoravo che esistessero, ma l'ultima risale al 2008. Quindi, beh, allora, non abbiamo detto chi è che canta, che è Sulman, hai detto, l'ex leader di questo gruppo indie rock hamburghese, i Tonte, e ha scritto questa canzone, dice, malinconica, perché essere tifosi del San Paolo è una sofferenza infinita, perché le soddisfazioni sportive sono poche, questo qui è calcio, sì, sicuramente il calcio è anche sofferenza, però questa canzone che è bella in un mondo di indie calcistici che fanno per lo più schifo, anche se noi insomma abbiamo cercato di selezionare canzoni degne di nota, questa canzone che è bella, cioè, ci permette anche di parlare di un club che è più famoso per i suoi principi e per i suoi ideali che per i suoi successi sportivi, perché il San Paolo ha tifosi in tutta Europa e anche in altre parti del mondo, credo, per via dei suoi ideali antifascisti che vengono sempre anteposti al discorso schiettamente calcistico. Però negli ultimi due anni diciamo che il genocidio palestinese è stata una questione particolarmente drammatica per la tifoseria del San Paolo, al punto che alcuni gruppi di tifosi fuori dalla Germania, per esempio gruppi in Spagna, Bilbao, a Barcellona, si sono dissociati per via dell'atteggiamento della società che veniva considerato troppo tiepido. Va detto innanzitutto che gli ultra del San Paolo sono gemellati storicamente con gli ultra dell'Apo e Tel Aviv, che però non sono quelli del Jerusalem Beitar, che sono di estrema destra, e estrema destra è estremamente riduttivo. Però diciamo che appunto questa enfasi che è stata sottolineata dall'inizio di questa fase del conflitto, non mi piace questa parola, il 7 ottobre 2023, insomma, l'atteggiamento del San Paolo è stato giudicato tiepido da parte di molti tifosi per il mondo, e addirittura il capitano della squadra, l'australiano Jackson Irvine, è stato redarguito per alcune prese di posizione filo-palestinesi abbastanza chiare. E io adesso non voglio dire che giustifico la posizione del San Paolo, anche perché insomma noi abbiamo detto la nostra con la puntata di Ribaldone qualche settimana fa, la nostra posizione è chiarissima. Però diciamo che questa incertezza di una squadra così granitica nei suoi convincimenti, secondo me, non sto giustificando, ripeto, secondo me stanno sbagliando nei limiti del possibile, è dovuta alla presenza in Germania dei neonazisti. E ovviamente con un movimento neonazista così forte, qualunque posizione diciamo malinterpretabile, Banzo, siamo davvero agli sgoccioli, però, Banzo, siamo un po' lunghi e abbiamo ancora un brano, tema complesso, magari ci ritorneremo, hai fatto bene comunque a precisarlo, siamo però all'ultimo brano dove torniamo in realtà in Emilia, no? Con una cosa molto particolare, un inno che in realtà è stato un inno scartato. Esatto, di Manuel Bongiorni, in arte musica per bambini, ma qui si presenta col suo nome, titolo Dalle valli alla città, brano perdente nella finale insieme ad altri del concorso Scegli il nuovo inno del Piacenza Calcio, lo vinse Forza Piace di Andrea Crosali, ma questa canzone è spettacolare perché è un puro brano di musica per bambini e porta quel discorso musicale stranissimo, paradossale, divertente nel contesto abbastanza imbalsamato e paludato degli inni calcistici, oltretutto con una quantità di riferimenti anche al calcio degli anni 90 che sono molto gustosi e che vanno al di là del tifo puramente piacentino. Ti dirò per chiudere che io questa canzone negli ultimi giorni l'ho canticchiata compulsivamente, Steven, quindi un grande applauso da parte mia a Manuel Bongiorni. Eh sì, tra l'altro pensando a quel Piacenza degli anni 90 che poteva vincere anche contro le grandi squadre, ricordo le rovesciate di Luiso, no? Vabbè, dai, insomma, non abbiamo tempo di entrare in tutto ciò. Che ricordi, Sì, no, qui si aprono tante porte e la puntata si sta chiudendo, purtroppo. Ascolta, grazie Banzo di essere stato con noi, ci ritroviamo venerdì prossimo per una nuova puntata di Zibaldone, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17.57, diceva tutti i venerdì. Comunque è un fatto che da che esiste la Romagna, da che esiste Cesena, nessuno in Romagna l'abbia mai pronunciato con la S sorda, come nella canzone che abbiamo sentito prima. Si dice vabbè. Cesena. C'è sempre una prima volta. Ciao Banzo, buon fine settimana a tutti. Manuel, buongiorno. In Spagna la Roja che gioca di chi tacca. C'è il campione del mondo che non vedi qua. C'è la squadra dei ricchi che dopo da vecchi li prendo gli scemichi. C'è chi parte dal basso e chi mette giù il basso. C'è la stampa di fretta, la premere aspetta una nuova tripletta. Però la settimana è finita di già. Ma il Piacenza è la squadra che mi fa la Piacenza, con i vecchi e con gli ultra. Siamo Piacenza, dalle valli alla città. Anche a gara finita, per tutta la vita io rimango qua. Na na na. Abbiamo visto Del Piero, Gascogne, Rivaldo, Ricovero, Naldo, che vincevano il mondo e perdevano qua. Con il tempo da cani e al cielo le mani, se lo chiede Pio Vani. Abbiamo vinto la B e abbiamo visto la A. Applaudito campioni, battuto squadroni, di fatto che Gramloni. Tanto c'era la nebbia e nessuno lo sa. Ma il Piacenza è la squadra che mi fa la Piacenza, con i vecchi e con gli ultra. Siamo Piacenza, dalle valli alla città. Anche a gara finita, per tutta la vita io rimango qua. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Siamo senza, solo fino a venerdì. Che si vinca o si perda, col tempo di brutto io rimango qui. Na na na na na.